Ci fu trambusto alla porta. I doni erano arrivati e anche i domestici della casa, forse due dozzine, molti dei quali vecchi come le più vecchie vedove. Benché i membri della famiglia potessero trasferirsi in lontane città, a coloro che avevano servito la casa era assicurato un posto fino alla morte. Una volta ancora, 20 d'agosto dirigeva le operazioni, facendo sedere i servi per terra lungo entrambi i lati del tavolo di famiglia e chiamando ciascuno per offrirgli il suo dono. Misteriosamente, l'uomo che aveva lasciato i cortili 5 anni prima aveva scelto per ciascuno il dono adatto: occhiali da vista per la cucitrice miope, sapone profumato per la lavapiatti, un cane per il guardiano notturno, bacinelle per i piedi e caschi per i portatori, una pelliccia di scoiattolo per l'anemica Amà, troppo vecchia ora, per fare altro se non starsene nel cortile a chiacchierare coi mercanti che venivano alla porta. La scorta per un anno di tonico Lydia Pinkham per la cuoca impressionabile che aveva dolori in ciascuno dei 367 punti del suo corpo, cui non poteva porre rimedio né l'erborista né l'uomo degli aghi d'oro. Una bilancia molla per il guardiano della dispensa, una bicicletta per il capo portatore, orecchini di giada per ciascuna delle serve e una borsa dell'acqua calda per ciascun letto. Ogni regalo era accolto con un gridolino di gioia che aumentava l'attesa per il grande dono che doveva arrivare, quello per la famiglia. Infine, 20 d'agosto, si affacciò alla porta e chiamò i facchini. 6 uomini che portavano un carico pesante avvolto di broccato rosso. Mentre avanzavano verso il centro della stanza, un applauso si levò dai presenti. «Che cos'è?» urlavano tutti, pregando i facchini di non lasciarlo cadere e cercando di indovinare di cosa si potesse trattare. Tre bare, una carrozza elettrica, la sposa del giovane padrone, latte di soia per 5 anni, oro, oro, oro. A ciascuna ipotesi, 20 d'agosto, in piedi accanto al dono, scuoteva solennemente la testa. Quando cominciarono a ripetersi, batté le mani per chiedere il silenzio. Onorate nonne, amici vecchi e nuovi. Nessuno respirava. Offrirò a ciascuno un'ultima occasione. Oh! Gemette la seconda prozia. Ti prego, basta! Lascia che questa vecchia veda cos'è prima di salire in cielo con la cicogna. Come vuoi tu, mia prozia. E si inchinò. Poi, con un gesto ampio, tirò via la coperta di broccato, offrendo una visione di palissandro e madreperla, avorio e argento. Tutti esplosero in grida di gioia e persino l'una di primavera era talmente abbagliata che impiegò un attimo prima di capire che il dono era una pianola. Le tre vecchie vedove si fecero avanti, oscillando sui loro gigli dorati, giravano intorno all'oggetto, allungando le mani, ma senza osare toccarlo, mentre i servi, indicandolo, si battevano grandi colpi sulle cosce, urlando la loro approvazione. Alba luminosa e virtù splendente mantenevano il loro atteggiamento dignitoso, agitando freneticamente il ventaglio. L'una di primavera teneva stretto per mano promessa costante. Cadde il silenzio. Che cos'è? Chiese la seconda prozia. Che cos'è? Non lo sai, sorella? Fece la terza prozia con aria di superiorità. No, e tu? Io sì, naturalmente. La terza prozia fece una pausa d'effetto mentre tutti aspettavano la risposta. Ma lascerò che sia 20 d'agosto a illuminarvi. Mentre gli altri manifestavano la loro delusione, lei scoppiò a ridere, sussultando in tutto il corpo rotondo come una zucca matura, e con aria modesta si portò una mano alla bocca per nascondere la sua sconveniente ilarità e 2 denti mancanti. Promessa Costante non resistette più. Liberatosi dalla mano di Luna di Primavera, corse verso 20 d'agosto tirandolo per i pantaloni. Dimmi, dimmi cos'è, dimmelo! Ora che le risate echeggiavano per tutta la sala e le vedove insistevano perché il mistero fosse svelato, l'una di primavera non poté fare a meno di ridere. Le mie prozie, pensò, vivranno fino a 100, 200 anni. 20 d'agosto sollevò le braccia, fingendo di arrendersi, poi frugò nelle sue diverse tasche finché trovò un fazzoletto con cui asciugarsi la fronte. Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Ripiegò con cura il fazzoletto e se lo infilò nella tasca della giacca. Per favore, sedetevi tutti, perché sto per mostrarvi di cosa si tratta. Le vedove scuotevano la testa come per dire era ora, e si aiutarono l'una con l'altra a prendere posto. I servi sedettero sul pavimento. 20 d'agosto sorrideva, ma prima un gemito si levò dalla piccola folla. Ma prima di mostrarvi la magia che si nasconde qua dentro, ho bisogno dell'aiuto di una ragazza dai piedi grossi. Le teste si girarono di scatto verso Giada Lucente. Tu! Nell'eccitazione generale, Luna di Primavera aveva quasi dimenticato la figlia che non si era mossa e stava seduta ben eretta nel suo vestito da missionaria. Giada Lucente scosse il capo. Mia figlia, pensò Luna di Primavera, ha sempre l'aria di criticare tutto. Era insensibile persino al fascino di 20 d'agosto. Luna di Primavera si unì al coro. Tu! E infine, promessa costante, andò da lei e la prese per mano. Ti prego, nipote, ti prego! Nessuno poteva resistergli. Tutti applaudirono quando lei sedette alla pianola. Ora, sorella, fa attenzione. La voce di 20 d'agosto rimbombò. Metti il tuo grosso piede sinistro qua, indicò il pedale sinistro, e il tuo grosso piede destro là. Con riluttanza, Giada Lucente ubbidì. Ora, sorella, fa lavorare i tuoi piedi. Premi prima l'uno, poi l'altro. La ragazza ubbidì e improvvisamente la musica si diffuse per la sala. Nessuno, tranne 20 d'agosto e Giada Lucente, conosceva le melodie, ma tutti applaudirono quando il giovane annunciò che erano state scritte da quel famoso americano, Stephen Foster. Per ore i cortili echeggiarono di canzoni, mentre l'intera famiglia canticchiava i motivi di Campton Races e Ginny with a Light Brown Hair, battendo il tempo coi gigli dorati e i sandali di paglia. Promessa costante turbinava per la sala, le braccia alzate, la testa buttata all'indietro, e rise quando si accorse che Vista Brillante e un portatore lo seguivano nel timore che cadesse. Giada Lucente, rossa in volto, se ne stava infaticabilmente al piano e mentre cantavano scambiava tenere occhiate col direttore d'orchestra. È quasi come un tempo, pensò Luna di Primavera. Tanto calore, tanto rumore, tante persone. Persino gli antenati e le antenate sembravano vicine. Immaginò suo padre, la matriarca e il venerabile seduti fianco a fianco sulle sedie di palissandro, muovendo appena la testa, dignitosamente nel seguire la musica. Il vecchio giardiniere riposava in un angolo e Ciccia era dappertutto e rideva. La festa durò fino a sera e anche dopo la colazione. Il giorno dopo si sentivano brani di melodie mentre i servi si affaccendavano nei cortili. Luna di Primavera stava disfando il pacco di libri nel suo alloggio nel cortile del Cuore Saggio quando una delle serve venne a richiedere un'udienza privata da parte di 20 d'agosto. Lo accolse con un certo disagio. Doveva avere il buon senso di aspettare un po' prima di parlarle di sua figlia. Zia, come sei stata gentile a ricevermi? Lei gli fece cenno di sedere. È solo doveroso che un insegnante riceva il suo vecchio allievo. Preferirei che tu mi vedessi in una luce diversa. Nonostante i tuoi brillanti sforzi, ero uno scolaro molto svogliato. Beh, per alcuni la vita è una maestra migliore. Si avvicinò a lei. Posso chiederti un favore, zia? Non riesco a immaginare quale favore possa farti in questo momento, 20 d'agosto. Tira fuori il suo ventaglio e l'aprì di scatto. Lui sorrise, per nulla impressionato dal suo tono formale. Beh, come hai potuto vedere, mi sono inserito in diversi rami d'affari. Oh, non parlare d'affari a me, io non ne so niente. Lui sorrise di nuovo. Ti prego, sii paziente, desidero chiederti un grande favore che solo tu mi puoi concedere, zia. Lei annuì. La mia proposta riguarda una proprietà che ho e che desidero ottenere per usarla in futuro, quando in quel punto si dovrà costruire una fabbrica o una stazione ferroviaria. Non voglio che i miei concorrenti sappiano che mi propongo di acquistare le proprietà circostanti. Per mantenere segreto questo progetto, ho bisogno che qualcuno di mia fiducia abiti nella casa. È ammobiliata di tutto punto e dotata anche di personale. Se mi ci trasferisco io, la gente avrà dei sospetti, ma se ci abiterai tu, nessuno potrà indovinare le mie intenzioni. Si fermò come aspettandosi una reazione. Luna di Primavera ripose il ventaglio in silenzio. Mi faresti il più grande favore se acconsentissi a vivere là, proseguì lui. Naturalmente provvederei io a tutte le spese. Luna di Primavera scosse il capo. Zia, So che è una grande pretesa da parte mia, ma non devi dire di no finché non hai visto la casa. E dov'è? A Shanghai, nel settore francese, Rue Flaubert. È vicina quanto basta alla tua MS Company, pensò. Eppure non riusciva a essere in collera con lui. Non si rendeva conto che non toccava a lei dargli quanto stava cercando di ottenere con tutte le sue macchinazioni. Non ci sarebbero stati intermediari per Giada Lucente. 20 d'agosto, siamo appena tornati a casa. Zia, ti prego, scusami per averti parlato dei miei problemi d'affari così presto. Mi sarei dovuto frenare, ma ti prego, non dirmi subito no. Pensaci un poco durante i mesi a venire. Non c'è fretta. Esitò, come se riflettesse sull'opportunità di proseguire, e poi disse a bassa voce: Ho aspettato tanto, che certo posso aspettare ancora. Nonostante quel che tu puoi pensare, cara maestra, io sono un uomo molto persuasivo. 27. Una persona di carattere. Un tempo c'era una moglie che desiderava compiacere il marito, farlo sorridere, renderlo felice. Sentendo che lui ammirava i piedi grossi, si ripromise di liberare i suoi. Per il primo mese bagnò regolarmente i suoi gigli dorati nelle acque medicinali finché le ossa e i calli si furono ammorbiditi. Durante il secondo, poco a poco, raddrizzò le dita storpiate. Durante il terzo, imparò di nuovo a camminare, un passo alla volta. Ogni mese versò un barile di lacrime. Quando si fu tolta tutte le fasce, i piedi erano ancora troppo corti. E imbottì la punta delle nuove scarpe dai tacchi alti con cotone e un cono di legno. Fiera si diresse al cancello della luna per fare una sorpresa al marito che tornava dal suo viaggio in un'altra città. Lui non notò il cambiamento finché lei non fu lì lì per cadere. La moglie protestò debolmente: Marito mio, volevo soltanto con piacere fare quel che nessuna nella nostra casa ha mai fatto. Volevo che tu potessi dichiararti fiero di tua moglie. Una cinese moderna coi piedi grossi. Storie di clan. Era il crepuscolo del terzo giorno della quindicina della piccola neve. Giada Lucente sedeva nella stanza che divideva con Promessa Costante. Voltando lentamente le pagine della Bibbia, mentre fuori, sulla veranda, il bambino giocava con una scopa cantando una canzone che lei non conosceva. All'ora del serpente, le vedove e Virtù Splendente, scortate da Vista Brillante, erano partite per un soggiorno di una settimana al convento della Ricerca Pacata. Aveva apprezzato quelle ore di solitudine e il fatto la turbava. Era un segno di debolezza, di mancanza di dedizione al suo dovere. Lei doveva compiere l'opera di Dio. Non doveva importarle che gli altri considerassero il suo comportamento rozzo e sconveniente. Non c'era dubbio che, da quando era ritornata 4 mesi prima, lei era diventata come sabbia negli occhi per tutta la famiglia. Dopo che aveva tolto il dio della cucina dal suo posto e aveva distribuito le offerte ai mendicanti che stazionavano al cancello dei mercanti, le anziane l'avevano sgridata per una settimana e sua madre aveva dovuto implorare diverse volte il loro perdono. Quando aveva tolto gli orecchini e il nastro da femminuccia all'unico figlio maschio del capo portatore, il primo dopo 6 femmine, l'uomo si era messo a piangere. Ora gli dèi gelosi mi ruberanno il mio bambino. Si era più volte lamentato, incurante delle sue spiegazioni, finché lei non aveva rimesso le cose come prima. Alcuni vecchi servitori avevano minacciato di dimettersi se lei non smetteva di interferire, e Virtù Splendente aveva dovuto placarli con doni. Aveva smesso presto di leggere la storia di Noè e del diluvio universale, e di Mosè e delle 7 piaghe d'Egitto, e persino le parabole di Gesù. Le donne si divertivano troppo a quei racconti e non ne capivano il senso. Ora leggeva soltanto i passaggi e i sermoni meno appassionanti, edificanti e allo stesso tempo diversi dalle storie tradizionali che si raccontavano ogni giorno. Ma avevano riso delle beatitudini e prima che lei fosse arrivata in fondo avevano ripreso a chiacchierare, a cucire e a bere il tè. La peggiore di tutte era sua nonna. Neve Fragrante, che passava l'intera mattinata davanti allo specchio ad aggiustarsi i capelli e a dipingersi le sopracciglia. Che vanità! Sua madre non era affatto vanitosa, ma non le era di nessun aiuto. Qui nei cortili nessuno avrebbe mai immaginato che avesse insegnato in una scuola cristiana. Il loro ultimo scontro risaliva a ieri e diversi altri l'avevano preceduto. Ma madre, figlia mia, Non desidero discutere di ogni minima goccia di pioggia. Preferisco parlare della tempesta che tu crei ovunque vada, predicando questo, insegnando quell'altro. Non devi insultare le anziane, non devi comportarti come se ti ritenessi più saggia di loro. Avrei dovuto dar retta a Porpor e insegnarti a capire la gente anziché mandarti a imparare l'inglese. Ma madre, non capisci che l'ignoranza impedisce loro di condurre una vita più produttiva e pia? Tu dici che devo star zitta, ma se tu vedessi una persona bere del veleno, non cercheresti di fermarla, soprattutto se quella persona fosse inerme come chi è cieco o sordomuto. Basta! Parlare in questo modo delle persone che ci hanno accolto è immorale. Io temo, già da lucente, che se la tua mente si è arricchita, il tuo cuore si è inaridito. Se non altro, Virtù Splendente non si limitava a giocare a Mahjong e a ricamare le tovaglie per l'altare, benché anche lei sembrasse insensibile a Gesù e avesse, con la sua consueta calma, rimesso il dio della cucina al suo solito posto sulla parete. E sempre lei era stata l'unica a non arrabbiarsi quando il cuoco si era rifiutato di lavorare per un giorno intero dopo essersi sentito dire che le fiamme dell'inferno erano più calde della sua stufa. E l'aveva ascoltata con vero interesse quando aveva annunciato che migliaia di donne si liberavano i piedi, mentre le vedove le avevano chiesto a gran voce di tracciare un abbozzo delle nuove scarpe alla moda coi tacchi alti. Prozia, aveva detto, in tutta la Cina, giovani di buona famiglia hanno giurato di non sposare mai una ragazza coi gigli dorati. Quando le zie avevano ribattuto che mentiva, lei ne aveva letto i nomi da un ritaglio di giornale. Ma le donne non l'avevano creduta finché non era intervenuta Virtù Splendente. È vero, anche mio marito me ne ha parlato. Ha detto che insisterà con i nostri figli perché sposino ragazze dai piedi grossi. Se la pensi così, perché non liberi i tuoi? Chiese la seconda prozia, trionfante come se avesse appena segnato un pung. Certo, perché no? Insistette Giada lucente. Sarebbe troppo doloroso, intervenne Luna di Primavera. Chi può dimenticare le lacrime che versammo nei primi mesi in cui ci fasciarono i piedi? Le donne stavano in silenzio. E come si potrebbe chiedere a qualcuno di soffrire ancora quelle pene, anche se così facendo potesse catturare il vento? Oh no! Esclamarono le donne, a eccezione di Virtù Splendente. Oh no! Soltanto qualcuno come mia figlia, che non sa cosa significhi, potrebbe fare una simile proposta. Quel che è fatto è fatto. Le altre annuirono. Giada Lucente si morse la lingua per soffocare la risposta che le bruciava dentro come una spina di pesce in gola. Quando venne l'autunno, cominciò ad accompagnare Virtù Splendente nelle sue visite ai pochi fittavoli che rimanevano ancora alla casa dei Chang. Ovunque i contadini erano magri, le guance scavate, sfiniti. Molti avevano impegnato gli abiti d'inverno e, non avendo il denaro per riscattarli, rabbrividivano per il freddo, ma quando lei accennò alle loro sofferenze, Virtù Splendente non mostrò molta compassione, limitandosi a dire in tono pratico: è piovuto poco e il raccolto è stato cattivo. Prozia, voi dovete fare qualcosa per aiutarli. Virtù Splendente non le rispose direttamente, ma, incapace di ignorare gli interrogativi della nipote, cercò di dare una spiegazione. Anche se i raccolti venivano divisi in parti uguali fra il proprietario e il fittavolo, secondo un'usanza di secoli, la vita era diventata sempre più difficile per coloro che lavoravano la terra, poiché i figli maschi erano considerati denaro in carne e ossa, considerati dai genitori per la loro futura vecchiaia ancora più preziosi dell'oro, ne venivano messi al mondo molti, i quali, a loro volta, quando diventavano adulti, desideravano dei figli, cosicché alla fine vi erano troppe bocche da sfamare. Un tempo, prima che Xuchao diventasse un porto aperto agli europei, i contadini integravano le loro quote vendendo articoli d'artigianato. Ora, anch'essi preferivano ai prodotti indigeni quelli stranieri, meno cari e di migliore qualità. Negli ultimi anni molti uomini avevano lasciato la terra per cercare lavoro in città, ma pochi vi erano riusciti, e i più erano diventati dei pesi morti per le loro famiglie. Era solo un elenco di motivi, senza alcuna proposta di rimedio, e Giada Lucente insistette. Non possiamo perlomeno diminuire i nostri affitti, prozia. Virtù Splendente finse di non sentire e passò a un altro argomento. Ma già da lucente non si scoraggiò e continuò a insistere finché Virtù Splendente rispose: La casa dei Chang ha parecchie responsabilità. Nei cortili vi sono molti uomini che non possono lavorare, molti che hanno servito la famiglia per generazioni, molti che non possono cambiare, uno che studia all'estero, altri che contano sul nostro aiuto, l'ospedale, la corporazione dei mendicanti. Ma prozia, non osando interromperla, già da lucente aveva approfittato di una pausa. Prozia, che ne sarà di loro? Alcuni non avranno abbastanza da mangiare. Venderanno forse i loro figli? Non è giusto, dobbiamo fare qualcosa. La moglie del patriarca rispose semplicemente: È il destino. E poi ripeté una frase che la stessa Giada Lucente aveva usato: Sia fatta la volontà di Dio. E la ragazza non parlò più. Ma non poté accettare quel che vedeva. Certamente sapeva che la Cina era povera, le missionarie gliel'avevano insegnato e lei aveva sentito le storie orrende raccontate dalle ragazze della Porta della Speranza, ma non aveva mai visto concretamente la realtà fino a quel momento. Giunti a una fattoria, un mo di terra lavorato da due fratelli di nome Eli, chiese a Virtù Splendente l'età degli affittuari. Gli adulti erano assai più giovani di quanto avesse immaginato, avevano un aspetto distrutto, nonostante sorridessero sempre, e i bambini più piccoli, attaccati alle gonne delle madri, avevano piaghe sulle gambe e il moccio al naso. Era turbata anche da tutti gli inchini dei contadini e da come uomini adulti supplicavano per ottenere il più piccolo favore. Pochi osavano aprir bocca, benché la padrona non fosse mai scortese. I bambini più grandi si tenevano nascosti finché non se ne andava. Era assillata da una molteplicità di pensieri, doveva fare qualcosa, non doveva sprecare altro tempo. Forse non sarebbe andata in America, forse si sarebbe iscritta a un'università della provincia, così avrebbe pesato meno sul clan. Infine, decise di offrirsi come volontaria all'ospedale. Come poteva diventare medico se non aveva mai visto dei malati? La reazione delle vecchie vedove era da prevedersi. Quanin misericordiosa! Esclamarono rivolte all'una di primavera. Non basta che la casa dei Chang non abbia mai mancato di dare il suo contributo per curare i malati? Cosa potrebbe fare una ragazza come lei fra stranieri che hanno persino malattie straniere? Né nient'altro che portare a casa i loro mali, devi proibirglielo. Per una volta, però, sua madre non si schierò con loro. Lasciamo che mia figlia vada all'ospedale, ribatté calma, e veda se può esserci lavoro per lei. Entusiasta, Giada Lucente voleva andarvi immediatamente, ma le fu risposto che la carrozza non era libera. Domani, le disse sua madre, aspetta fino a domani. Quella notte la ragazza non chiuse occhio, tanto era eccitata dalla prospettiva di fare finalmente qualcosa. Il mattino dopo, la moglie del medico della missione la ricevette con molta cordialità, intrattenendola a lungo durante il tè sull'importanza dei rapporti all'interno della comunità e del sostegno fornito da famiglie influenti come quella dei Chang. Anch'io vorrei essere d'aiuto, potrei. Sì, so che lei ha intenzione di frequentare la facoltà di medicina. La prego di pensare a noi quando sarà pronta a esercitare. Siamo sempre alla ricerca di medici, ma non abbiamo bisogno di volontari. Lungo il percorso verso casa aveva pianto in silenzio. Margaret non contava. Solo il clan contava. Giada Lucente chiuse la Bibbia. Era quasi buio e accese la lampada. Era ora di coricarsi. Aprì le persiane e guardò un attimo fuori dalla finestra osservando il bambino. Infagottato come il primo immortale nei suoi vari strati di indumenti, stava fingendo di raccogliere cose in una cesta immaginaria, canticchiando fra sé: prendi un frutto e te lo mangi tutto, prendi una gallina e la porti da mammina. Sembrava una filastrocca di contadini e lei si domandò dove l'avesse imparata. Ma il vento del nord le scompigliò i capelli. Promessa costante! Chiamò rabbrividendo. È tardi! È ora di andare a letto. Sorrise, vedendolo correre da lei. Il piccolo, perlomeno, non si opponeva mai ai suoi suggerimenti. Non si chiudeva mai in un gelido silenzio, non le diceva mai che era diversa. Vuoi che ti aiuti a svestirti? Chiese. Lui scosse solennemente la testa. Aveva gli occhi spalancati, innocenti, come quelli dell'agnello di Dio. Chiara prova della sua intenzione di prolungare il rituale. Lei sorrise di nuovo. Vederlo così aperto, trasparente, le dava coraggio. E mentre la sua testa scompariva nella cassapanca contenente gli indumenti per la notte, lei ripose la Bibbia, prese una matita e il suo blocco d'appunti. Si sarebbe posta degli obiettivi specifici, come faceva a scuola, quando l'aver cancellato una voce dalla lista le dava un grande senso di soddisfazione. Tenendo d'occhio il bambino, si segnò quel che avrebbe dovuto fare dopo che le donne fossero tornate dal loro ritiro. Non era facile. Immaginandole inginocchiate davanti agli idoli, la collera la assalì e strappò la pagina, spiegazzandola per ricominciare da capo quando fu di nuovo calma. Ben presto tutta la stanza fu cosparsa da una quantità di pallottoline di carta, eppure la lista aumentava. Devo tentare nuovamente di convincere il cuoco che l'oppio non serve a nulla. Devo cercare nuovamente di offrirmi come volontaria, questa volta all'orfanotrofio. Devo spiegare che le zucche sotto il letto non impediscono agli spettri di soffocare chi dorme. Devo. E improvvisamente corse verso il letto e vi guardò sotto. Non c'era nulla, né una zucca, né un mucchietto d'aglio, né altro. E ritornò a sedere. Devo dimostrare che le predilezioni dell'indovino sono sbagliate. Devo. Devo, devo. Promessa costante uscì, saltellando dal bagno, la faccia ancora bagnata. Un gioco, un gioco! Urlò, correndo a raccogliere una pallottolina di carta. Di nuovo lei non poté fare a meno di sorridere. Quale gioco? Nella pallottolina, una sorpresa per me! Chiese speranzoso. Se lo trovo, posso tenerla? Nessuna sorpresa, disse lei, raccogliendo rapidamente i fogli. È ora di andare a letto. Una storia? No, è troppo tardi. Una canzone? No, fece lei, con un tono che non ammetteva repliche. Hai giusto il tempo di dire le tue preghiere. Lui non protestò, ma si inginocchiò subito accanto al letto e, assumendo la posizione appropriata, ripeté la preghiera che lei gli aveva insegnato senza fare errori. In chiusura disse: Dio benedici Sao Sao. Dio benedici mio nipote Giada Lucente, Dio benedici mio nipote 20 d'agosto, Dio benedici tutta la casa dei Chang. Improvvisamente alzò gli occhi verso Giada Lucente, inginocchiata accanto a lui. Posso dire a Dio di benedire tutti quelli che desidero? Sospettosa lei esitava, ma c'era vera ansia negli occhi del bambino. Naturalmente. Lui chinò di nuovo il capo e disse: Dio benedici la mamma. Dio benedici il papà. Amen. Rapidamente si arrampicò dentro il letto. Poiché era la prima volta che li sentiva menzionare, lei gli chiese: La mamma e il papà abitano al villaggio? Lui annuì: Sì, a ceneri sapienti. Vuoi dire nel villaggio delle canne? No. Lui si mise a sedere e scosse la testa. Sei sicuro? Sì, fece lui. Sono stato al villaggio delle canne con Sao Sao. Io non abitavo là, ma a Ceneri Sapienti. Con mamma e papà? Certo, papà mi portava nei campi ogni giorno e la mamma mi ha cucito le scarpe col muso di tigre. Doveva aver detto ad alta voce che non gli credeva, poiché il bambino scivolò giù dal letto e sgattaiolò nello spogliatoio, ritornando con un paio di vecchie scarpe. Vedi? Vedi? Te l'avevo detto. Come ti chiamavi prima? Chiese lei. Era possibile che questo bambino non appartenesse al clan dei Wu? Piccolo tesoro, ma non mi piace più quel nome. È un nome da piccolino, io so leggere. Lei non lo ascoltava più. Ceneri sapienti, sapienti. Aveva già udito quel nome molto tempo prima, quando era una bambina, forse in qualche storia di sua madre. Poi ricordò. Ceneri sapienti era il villaggio di Marionetta. Marionetta aveva assistito sua madre quando lei era nata. La sua famiglia era stata massacrata e Luna di Primavera aveva più volte descritto le sue sofferenze. Promessa Costante doveva essere suo figlio. Non aveva mai visto la serva, ma ora se l'immaginava, vestita di stracci, gonfia per la fame, che portava il figlio più caro di ogni altra cosa alla sua antica padrona e amica per cercare aiuto. E invece di aiutarla, sua madre, la cui forcina d'oro poteva servire a sfamare una famiglia per un anno, aveva operato uno scambio di merci. Accettato l'inaccettabile. Che cosa c'è, nipote? Perché sei triste? Promessa Costante si chinò ansiosamente su di lei per toccarle una guancia, reclamando la sua attenzione. Ma anche mentre lo tranquillizzava, rimboccandogli la trapunta, L'immagine persisteva, diventando sempre più vivida finché fu sicura di aver scoperto la verità. Sua madre non era diversa dalle altre cinesi che vivevano fra le mura di un giardino, dal cuore insensibile, verso tutti quelli che stavano fuori. Sua madre aveva tolto un figlio, forse l'unico figlio, a una persona che aveva tanto sofferto, che aveva dovuto seppellire sua madre, suo padre, il suo fratellino. Sua madre aveva preso un figlio, aveva comperato un bambino, aveva preso un figlio, aveva comperato un figlio. Promessa Costante si agitò nel sonno e di nuovo lei si inchinò su di lui per calmarlo. Era sempre rimasta in ginocchio e ora pregava, sussurrando per non disturbarlo. Padre nostro, che sei nei cieli. Il mattino dopo si svegliò vestita come quando si era addormentata, con il bambino fra le braccia.